Sì, innanzitutto, come dicevi adesso tu, le diciamo presentazioni di questo libro che l'abbiamo iniziato a scrivere lo scorso anno in occasione, appunto, come dicevi, del 30° anniversario della nascita di Radio Onda d'Urto, sono occasioni per ovunque siamo andati fino adesso per degli interessanti dibattiti sulla comunicazione di movimento, sull'informazione di parte, su come continuare oggi a costruire una narrazione che sappia essere all'altezza delle sfide che i media cosiddetti mainstream della controparte, i media ufficiali ci pongono e che dobbiamo contrastare. Quindi siamo contenti di venire venerdì alla Sapienza, al Tre Serrande, perché sappiamo che anche in questa occasione l'impostazione sarà quella di un dibattito intorno ai temi della comunicazione, dei movimenti, e insomma questo era quello che ci proponevamo con la stesura di questo lavoro. Un lavoro che è nato da questa idea, cioè quella di riprendere in mano sia la storia che il tema della comunicazione in conflitto, della comunicazione in movimento, e anche quello insomma è nato un po' dalla consapevolezza di avere una storia da raccontare, di avere in qualche modo nel nostro piccolo un esempio da porre di un'esperienza radiofonica trentennale che con l'autogestione, l'auto-organizzazione e il totale, come sapete bene anche lì a Roma, il totale autofinanziamento per sopravvivere, per resistere, insomma è riuscita negli anni a sviluppare un progetto radiofonico sempre più a nostro avviso, che si è migliorato negli anni sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista dei contenuti, e quindi insomma riuscire a raccontare una storia che inevitabilmente raccoglie dentro di sé e sviluppa un po' la storia di una comunità, di una collettività qui a Brescia, che negli anni, in 30 anni, si è sviluppata intorno alle frequenze di Radio Onda d'Urto, in qualche modo dalla prospettiva, dalla lente. Immagino sia caduta la linea. Noi adesso ci mettiamo di nuovo subito in contatto con il compagno di Radio Onda d'Urto, che purtroppo era nel piano del discorso, è caduta la linea. Noi vi lasciamo un'interruzione musicale e poi ci risintonizziamo subito sugli 87.9 in collegamento con il compagno di Radio Onda d'Urto, che ci stava introducendo la presentazione del libro che si terrà venerdì al Tre Serrande, Autobiografia di una radio in movimento. Siamo di nuovo in collegamento con il compagno. Ci senti, Michele? Sì, vi sento, dovete solamente dirmi dove eravamo arrivati, perché io stavo continuando nel frattempo a parlare. Allora, guarda, sì, no, ci stavi appunto dicendo appunto, avevi concluso sull'obiettivo centrato del vostro libro, proporre e produrre dibattito sul tema della comunicazione, e anche a partire da quello che è l'esperienza della vostra radio, completamente autofinanziata, giustamente, come anche Radio Onda Rossa, quindi problemi anche pragmatici molto, molto comuni, quelli che affrontiamo nelle varie città, e riprendi anche appunto senza problemi, riargomentando. Sì, dicevo che appunto il libro parla un po' anche di questo, no? Delle difficoltà e delle pratiche, dei metodi utilizzati negli anni per far fronte appunto alle difficoltà di, da una parte, non avere i mezzi, gli strumenti economici e tecnici dei media della controparte, ma dall'altra parte insomma avere la volontà e la voglia di proporre una comunicazione che non sia diciamo sufficiente, non sia così fatta per fare, ma che riesca a proporsi in qualche modo di tra virgolette competere con i mezzi proposti, insomma la comunicazione proposta dall'altra parte. Stavo dicendo prima, in qualche modo parlando da solo penso e quindi lo ripeto, che insomma inevitabilmente è chiaro che la storia di una emittente come la nostra, quindi raccontata nel libro, piccolo inciso, raccontata raccogliendo testimonianze di tante compagne, tanti compagni che hanno attraversato e dato vita a questa storia trentennale, per poi rendere queste testimonianze, diciamo così, questi contributi, una narrazione collettiva in terza persona, quindi non una raccolta di interviste, è un modo anche di raccontare inevitabilmente anche la storia di una collettività, di una comunità, perché poi una differenza sostanziale di un media di movimento, di un media auto-organizzato, autogestito rispetto ai media ufficiali, anche la capacità di saper sviluppare attorno a sé un progetto politico, sociale, un territorio, e quindi quello di sviluppare attorno a sé anche una comunità non solo d'ascolto ma soprattutto di solidarietà e di sostegno. E quindi in qualche modo soprattutto è anche un po' il modo di attraversare la storia dei movimenti sociali, soprattutto del nostro territorio e quindi delle lotte di questi ultimi 30 anni, ma anche in qualche modo sempre dalla nostra prospettiva, quindi sempre dalla lente della redazione di Radio Onda d'Urto, di come più o meno bene sia riuscita negli ultimi anni a raccontarli. Si ripercorrono anche avvenimenti importanti per i movimenti italiani ma anche europei e transnazionali in questi ultimi 30 anni, sempre a partire da come la redazione, come Radio Onda d'Urto li ha vissuti, li ha cercati di raccontare. Quindi assolutamente senza la pretesa, infatti abbiamo specificato anche nel sottotitolo per questo motivo che si tratta in qualche modo di una autobiografia collettiva, senza la pretesa di darne interpretazioni o verità, senza la pretesa di fare un lavoro, come dire, enciclopedico, però si ripercorrono dal nostro punto di vista, da come li abbiamo vissuti, dai nostri studi, anche dai nostri studi e, come ben sapete, anche scendendo chiaramente in mezzo alle piazze, in mezzo alle persone durante queste lotte, questi movimenti, anche insomma come li abbiamo visti. E in questa, chiudo così questo primo intervento, questo può essere interessante, perché mentre sappiamo tutti che sugli anni 70 ad esempio esiste una scrittura, una letteratura molto ampia, invece di quello che hanno saputo comunque fare negli ultimi 30 anni i movimenti sociali a partire dagli anni 80, il periodo strano anche rispetto alla Agenda Rossa, Radio Cervo, altre radio storiche di movimenti in cui nasce Radio Onda d'Urto, cioè a metà anni 80, esiste sicuramente molta meno letteratura, esiste molta meno documentazione, quindi da questo punto di vista il lavoro era anche abbastanza stimolante. Sì, sicuramente appunto la stesura di questo libro, di racconto anche degli ultimi 30 anni, di come si è evoluta l'informazione e il rapporto tra la radio e la sua identità e il movimento è interessante. Sicuramente non c'era una produzione del genere rispetto agli ultimi 10-15 anni di lavoro. Sarà quindi appunto venerdì al Tresserrando un'occasione per fare un punto anche insieme tra più realtà che si confrontano e si cimentano nella trasmissione radiofonica, nel produrre e costruire controinformazione. Sarà appunto un'occasione interessante. Io ti ringrazio per questa corrispondenza, anche questo è stato un antipasto di, diciamo, dell'iniziativa che si terrà venerdì con la presentazione del vostro libro, Autobiografia di una radio in movimento. Io ringrazio il compagno di Radio Onda d'Urto, che sarà lui stesso presente venerdì al Tresserrande occupato, e appunto ci vediamo nei prossimi giorni.